Sura dello Squarciamento, capitolo 82 del sublime Corano. È stata rivelata alla Mecca, consta di 19 ayat ed è sceso dopo la Sura 79 intitolata An-Nazi'at. Nel nome di Allah, il sommamente misericordioso e il clementissimo. Quando il cielo sarà squarciato, quando i corpi celesti saranno dispersi, quando i mari d'acqua dolce e d'acqua salata saranno fatti irrompere gli uni negli altri attraverso il sipario che li tiene separati, quando i sepolcri saranno messi sottosopra, ogni creatura umana saprà ciò che essa mandò avanti e ciò che tralasciò. O uomo, cos'è che ti ha fatto trascurare il tuo Signore generoso, il quale ti ha creato, conformato e ben proporzionato? Egli avrebbe potuto costruirti come gli fosse piaciuto. Niente affatto. Voi contestate l'Islam, però accanto a voi ci sono sorveglianti, onesti, che registrano le vostre azioni, i quali sanno ciò che voi fate. In verità, i credenti sinceri e convinti saranno con certezza nelle delizie del paradiso, e in verità di certo gli empi saranno nel fuoco dell'inferno, dove arrostiranno in eterno dopo il giorno del giudizio, e da cui essi non usciranno mai. Cosa ti spiegherà che cos'è il giorno del giudizio? E ancora, cosa ti spiegherà cos'è il giorno del giudizio? È il giorno in cui nessuno potrà fare qualcosa per un altro. Quel giorno il potere apparterrà esclusivamente ad Allah.